io sono in questo commercio da sempre. Pensi che aiutavo mia madre dopo la scuola quando avevo solo 6 anni e la imitavo. Lei non si limitava solo a vendere libri. No, lei aiutava i bambini a diventare quello che poi sarebbero diventati. Perché se leggi un libro da piccolo diventa parte di te, come non succederà mai con altre letture. E io sono partita in quarta, Si può fare. Cronache da un paese migliore, di Alessio Maurizi. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori. Ben ritrovati da Alessio Maurizi in diretta fino alle 11 anche questa mattina. Tra poco un veloce, rapido sguardo ai giornali, poi gli approfondimenti culturali con il domenicale, inserto culturale del Sole 24 Ore. Dopo il giornale alle 9 cominceremo con i nostri ospiti, le buone notizie, gli approfondimenti. Parleremo, sì, anche noi di corruzione e grandi opere, insomma, nella settimana delle dimissioni di Lupi, al di là di cosa si pensi sul caso dell'ex ministro delle infrastrutture, viene il dubbio che, insomma, grandi opere si realizzino più per far circolare mazzette che non per l'utilità in sé di queste stesse opere. Ne parleremo con una persona che ieri ha marciato a Bologna alla manifestazione con Don Ciotti per le vittime della mafia, ma anche contro la corruzione. È un politico, sì, ma è un politico un po' diverso rispetto a tanti altri, il sindaco di San Lazzaro, una ragazza giovanissima che ha detto sì alla legalità e no al cemento. Una storia straordinaria, molto bella, ne parleremo dopo il giornale radio delle 9. Adesso, come detto, andiamo sul giornale di oggi. Vai! Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora, di cosa si occupano i giornali di oggi? Beh, insomma, ancora di politica, naturalmente, ma anche, per esempio, il Corriere, insomma, la visita del Papa a Napoli è un po' su tutte le prime pagine. Il Corriere decide di accoppiare la manifestazione di Don Ciotti, di cui parlavo poco fa, delle vittime della mafia contro la corruzione, organizzata anche da Libera di Don Ciotti, e il Papa a Napoli. Due figure importanti, insomma, che ieri hanno parlato entrambe di corruzione. Il Papa: reagite, la corruzione spuzza. L'appello a reagire alla camorra e alla corruzione che spuzza. Le folle di Scampia e di Piazza Plebiscito, il pranzo con i detenuti, eccetera eccetera. La foto del Papa che scherza tra la gente, e la foto di invece Don Ciotti che abbraccia i parenti delle vittime della mafia alla manifestazione di ieri. 200.000 voci per 1.035 vittime. Chi non vuole una legge sulla corruzione aiuta i mafiosi, ha detto Don Ciotti. Un'immagine questa di queste due giornate, di queste due manifestazioni, di queste due persone amate dalla gente che si occupano in qualche modo di corruzione, fanno testimonianza contro il degrado, insomma, della società pubblica e civile, quasi a dimostrare che, insomma, mentre la politica discute di legge anticorruzione, annuncia provvedimenti più o meno realizzati, più o meno invece ancora di là da venire, chi veramente sta vicino alla gente su questo tema sono loro, i preti, il Papa e Don Ciotti. Il titolo principale però del Corriere invece è relativo alla spending review, comuni e trasporti, ecco i nuovi tagli. Vediamo di cosa si tratta. Secondo le anticipazioni del Corriere, il governo è alla ricerca di 10 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'IVA previsto dalle clausole, insomma, della legge di stabilità. Nel mirino ci sono la sanità regionale con i costi standard per le regioni, ma anche i trasporti e altre cose, per cui, insomma, la razionalizzazione per esempio del trasporto pubblico locale con l'obbligo di gare per l'affidamento del servizio, il taglio dei trasferimenti alle regioni che non ottemperano l'applicazione dei costi standard, ma anche la la revoca, la rivisitazione degli incentivi fiscali alle imprese, ricordando che il piano di Cottarelli prevedeva risparmi fino a 34 miliardi di euro di sprechi nella spesa pubblica, un piano che è sparito sostanzialmente dall'agenda del governo. Repubblica invece, oltre alla foto del Papa naturalmente, si occupa di politica col titolo di primo piano, perché c'è l'intervista a Matteo Renzi che dice no a dimissioni per gli avvisi di garanzia, non caccio gli indagati. È quasi una risposta alle critiche sul tema della corruzione di cui dicevo poco fa, del Presidente del Consiglio, che su appunto Repubblica si fa intervistare e dice: intanto a proposito di sottosegretari indagati, che però non sono stati dimissionati, non ne sono state chieste le dimissioni, mentre Lupi se n'è andato, dice: sono cose diverse, dice Renzi. Ho sempre detto che non ci si dimette per un avviso di garanzia. Per me un cittadino è innocente finché la sentenza non passa in giudicato. È scritto nella Costituzione, si dice sia la più bella del mondo, bisogna almeno leggerla. Perché dovrebbe dimettersi un politico indagato? Le condanne si fanno nei tribunali, non sui giornali. Lupi però ha subito un pressing per dimettersi. Non è nemmeno indagato, Lupi, risponde Renzi. Ha fatto una sua valutazione, giusta e saggia, secondo me, una scelta personale molto degna. Si torna al tema, insomma, della scelta personale di Lupi basata su questioni politiche, ma insomma ancora lo incalza l'intervistatore su altri casi di corruzione che ci sono stati, e Renzi si difende a questo punto e dice: ma io ho chiesto le dimissioni per esempio del sindaco di Venezia Orsoni, quando si era dichiarato colpevole durante il patteggiamento. Ho commissariato il Partito Democratico a Roma per gli scandali su Mafia Capitale, anche se il segretario non era indagato, il segretario del PD di Roma. Quindi, dice Renzi, insomma, quando c'è da agire, agisco. E su De Luca, il candidato, ex sindaco di Salerno, candidato alle primarie, più votato di tutti per l'elezione alla guida, insomma, della regione Campania, lui ha fatto una scelta diversa, e anche qua insomma un'eccezione secondo Renzi. Considera giusto chiedere il voto agli elettori, si sente forte del risultato delle primarie. Ecco anche qua insomma l'eccezione di De Luca. Altri passaggi sono dedicati per esempio a Incalza, che è il personaggio chiave dell'inchiesta di corruzione, l'ultima, quella sulle grandi opere, insomma avrebbe incassato tangenti per 250 milioni per far lavorare alcune imprese, quella di Perotti, l'inchiesta che poi ha portato anche alle dimissioni di Lupi. Incalza, dice Renzi, anche lui è un cittadino innocente fino a quando non sarà condannato, e ha lavorato con noi fino alla scadenza del suo mandato, fine 2014, basta, da allora in poi con noi non ha più lavorato. La manifestazione di Don Ciotti, che ieri ha detto: chi non lotta contro la corruzione aiuta i mafiosi, quasi un messaggio mandato allo stesso Renzi. Risponde Renzi: voglio troppo bene a Don Ciotti per fare polemica con lui, mi aspettavo però che ieri spendesse mezza parola sulla declassificazione del segreto di Stato per le vittime della mafia, o sul fatto che l'autorità nazionale anticorruzione fino a un anno fa non esisteva, era solo il comma di un articolo di legge e Cantone era un giudice di Cassazione. Insomma, Renzi che rivendica le cose da lui fatte, tra cui anche aver portato Cantone alla guida di questa autorità anticorruzione che prima non c'era, e dice insomma, questi sono i fatti che parlano per me. Un'ultima cosa, ce la consentirete, speriamo di non annoiarvi troppo con Renzi, è la risposta di Renzi alla manifestazione di ieri del PD, insomma alle parole di D'Alema, che ha detto c'è troppa arroganza nel Partito Democratico, così come lo gestisce Renzi, e c'è la proposta di fare un coordinamento parlamentare delle minoranze del PD, insomma la telenovela della minoranza del PD. Sentite sprezzante Renzi come risponde a D'Alema, che secondo lui ha utilizzato un lessico che non appartiene a Renzi, ma espressione, dice, che non mi appartiene, espressioni che stanno bene in bocca a una vecchia gloria del wrestling più che a un ex primo ministro, cioè da a D'Alema del ex gloria del wrestling, cioè del bollito del come dire, insomma, ecco, basta, non mi fate aggiungere altro. Altri giornali, altri titoli velocemente, per esempio il Giornale che titola sulla politica: Renzi si annette l'NCD verso un monocolore del Partito Democratico, perché insomma sembra sicuro che se ci sarà un rimpasto non è detto che il nuovo centrodestra ottenga di nuovo il Ministero delle Infrastrutture. Ma il commento interessante, se lo trovo, è quello di Nicola Porro sulla Pirelli passata in mano cinesi. dei cinesi. La piangina del tricolore, un commento in controtendenza. Porro non si preoccupa del fatto che siano passate sotto le mani dei cinesi molte aziende, e l'ultima la Pirelli, perché un punto interessante è questo. Un rovesciamento proprio del punto di vista. Dice Porro: sapete che il marchio che maggiormente contribuisce ai margini della multinazionale Nestlé in Italia e la rende forte nell'esportazione in tutto il mondo è l'acqua minerale italiana San Pellegrino. Prima era lì che languiva e oggi ce la troviamo su tutte le tavole del mondo, con ricadute sull'occupazione in Italia. Nel settore del lusso i casi non si contano, da Bottega Veneta a Gucci sono passate ad una multinazionale e sono esplose. La birra Peroni viene considerata in Italia una bevanda cheap, da quando l'ha comprata Sub Miller è diventata un brand premium in mezzo mondo, con tasso di crescita da brivido. Morale: non è importante la proprietà di un'impresa, ma la bontà di un prodotto pensato e made in Italy. A proposito di Pirelli, e qui chiudiamo questa prima parte di rassegna stampa, il Sole 24 Ore ricorda che c'è una clausola salvavita. Il titolo infatti è: Opa Pirelli, spunta la clausola salvavita, che prevede infatti che per modificare lo statuto dell'azienda, e che prevede che ricerca, sviluppo e management siano in Italia, ci vorrebbe il 90% del capitale. Dunque i cinesi non potrebbero agire da soli, ma dovrebbero coinvolgere i soci italiani per stravolgere questa azienda e per dire un domani portarla tutta via, tutta all'estero. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Si può fare. È il momento di andare a curiosare tra le pagine dell'inserto culturale del Sole 24 Ore, il domenicale, e ritroviamo Armando Massarenti. Buongiorno e buona domenica. Buongiorno, buona domenica a tutti. Caro Armando, fammi dire allora, subito una cosa sì, che mi inorgoglisce, perché la vostra copertina di oggi da milanese, insomma da milanese d'adozione, io non sono di Milano ma ci vivo da anni, un nuovo spazio per la cultura in questa città, un'operazione importante, il Museo delle Culture, tra l'altro coinvolge anche il nostro gruppo, il Sole 24 Ore, questo nuovo spazio appunto per la cultura a Milano. Vedo che oggi partite da qua. Sì, partiamo da qua, e si tratta appunto di uno spazio che sarà gestito dal Sole 24 Ore Cultura per 12 anni e abbiamo una copertina di Salvatore Settis che ci parla un po' del cuore di questo museo, che è la collezione Settala. Vediamo proprio come inizia l'articolo di Settis: ponendo al cuore del suo percorso l'insigne collezione Settala, il nuovo Museo delle Culture di Milano ricapitola e rilancia non solo un importante episodio di storia del collezionismo, ma anche uno spaccato rappresentativo della storia culturale europea. E infatti il Museo Settala fu un'opera del milanese Manfredo Settala, stato ricordato e anche citato nei Promessi Sposi, che per 50 anni raccolse senza posa quadri, statue, medaglie, reperti archeologici, oggetti di storia naturale, fossili, animali, vegetali, strumenti musicali, armi, congegni meccanici e oggetti etnografici di ogni genere. Ecco, questo nucleo, poi sapete tutto, il titolo è la Wunderkammer di Milano, di questa nostra copertina questa settimana, erano appunto le Camere delle Meraviglie, no? E di cui questa di Settala è uno degli esempi più belli appunto nella storia europea, ed erano queste collezioni anche un po' sembravano alla rinfusa, no? Però che testimoniavano di questa curiosità che poi avrebbe trovato un ordine nei secoli successivi, ed è un riportare alla luce questo nucleo che appunto del 600 Settala aveva realizzato e che adesso torna alla luce dopo moltissimo tempo, che era rimasto un po' negli scantinati. E tornerà alla luce, ma non solo questo, perché questo, come dice, come sottolinea Settis, unito alle raccolte etnografiche che poi furono parte, diciamo, sono relative poi alla storia del nostro colonialismo, no? Certo non gloriosa, ma che comunque ci rimandano a che cosa? Allo studio e all'arte delle civiltà non europee. Quindi questo sarà un museo della cultura non eurocentrica in qualche modo, no? Della curiosità di come gli europei sono andati a scavare nei valori e a riscoprire i valori delle altre civiltà, delle civiltà non europee, e quindi tra l'altro le due mostre di cui si parla, non solo nella copertina, Settis fa un po' una sintesi, no, di queste due idee, cioè della, sì, museo, della raccolta settala e di questa parte invece più etnografica, e abbiamo queste altre due mostre che sono Mondi a Milano, che ci ricorda, so, quando a Milano veniva, non so, Buffalo Bill, c'erano proprio delle esposizioni di altri mondi, compresi gli esseri umani, che venivano portati e facevano spettacolo, si scopriva così dal punto di vista etnografico proprio anche altri modi di vita, altre cose che succedevano in altri continenti, e poi Africa, la terra degli spiriti, che è una grande mostra sull'arte africana. E devo dire, nelle pagine centrali non solo si rende conto di queste mostre, ma c'è anche un importante articolo di Baia Curioni, l'economista della cultura, che fa capire bene che tipo di modello economico sta dietro questa operazione, questa apertura di questo grande museo. Questo è sempre importante, vi sta molto a cuore questa cosa, ma è sempre importante ricordarlo, perché la cultura come privato, motore, certo, come motore, ma poi soprattutto pubblico e privato, che in un rapporto di stretta collaborazione si mettono alla prova, appunto, in un modello che è originale anche dal punto di vista proprio dell'organizzazione e delle modalità, appunto, di tipo economico gestionale. Ecco, quindi questo è un po' è molto ricco, ecco, insomma, sono due pagine centrali molto ricche. Questa apertura di Salvatore Settis da par suo ci fa proprio un affresco di quali sono i valori di fondo della civiltà europea, della sua curiosità verso l'altro e verso i valori degli altri, e queste due idee, appunto, il collezionismo e l'etnografia, che nascerà molto più tardi ovviamente, con l'etnismo del 600, e l'etnografia che poi si svilupperà soprattutto nell'800 e 900, sono tutto ciò unito ad una grande sensibilità per la cultura contemporanea e l'arte contemporanea. Insomma, tutto questo sarà questo museo che apre il 26, appunto, il MUTEC, che è il Museo delle Culture. E con questo ho risposto alla prima sollecitazione. Poi naturalmente sì, ci sono tante altre cose. Noi abbiamo un'intervista molto bella, ecco, uno che non si fa quasi mai intervistare, Necrosius, uno dei più importanti protagonisti del teatro, della scena teatrale mondiale, che è molto provocatorio in questa intervista che fa con Camilla Tagliabue, che l'abbiamo intitolato provocatoriamente "Neppure la bellezza ci salverà", perché rovescia un po' quella famosa espressione di Dostoevsky, e qui, insomma, è pieno di piccoli paradossi molto interessanti, in realtà provocazioni che vanno tutte però a vantaggio comunque dell'affermazione di una cultura, quella del teatro, che va rinnovata continuamente, come appunto Necrosius, questo regista lituano, sa fare e fa da tantissimo tempo. Poi abbiamo un grandissimo intellettuale americano, Michael Walzer. Tra l'altro questo è un articolo che è di grande finezza intellettuale, di esegesi biblica addirittura. Lui è uno dei principali esponenti della sinistra americana, è famoso per guerre giuste e ingiuste, tema di grandissima attualità, cioè proprio in questi giorni. Siamo quasi in chiusura, Armando, e quindi... Ma su Walter darò la domanda, perché parla dei modelli di pace dentro la Bibbia. E benissimo, rimandiamo gli ascoltatori in edicola naturalmente per tutti gli approfondimenti del domenicale. Ciao Armando, domenica prossima, cosa si può fare, ci troviamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick figure, silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Bass, bass, bass. Si parte! buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buona domenica a tutti. Eccoci qua, Monterosa, Milano, nuvoloso? Brutto tempo, pioggiarella, sta primavera. Non arriva, niente. Si fa attendere. Diciamo sarà ancora più bella quando arriverà. Sì, siamo oltre l'understatement milanese di cui parlavo ieri. Sì. Direi che qui siamo proprio al nascondimento totale. Siamo oltre l'Austria, cioè dove siamo? Siamo già in Danimarca, non lo so dove siamo. Cari ascoltatori, eccoci qua, vi aspettiamo tra poco anche per giocare, come sempre, con il personaggio della settimana. Che è difficilissimo. Oggi siamo veramente cattivi. Diamo subito l'indizio, così facciamo decantare. Voglio iniziare così. Subito che non è il Papa, così. Perché? Potrebbe essere invece. Potrebbe essere il Papa. Non escludiamo nessuno. Allora, il nostro personaggio della settimana si trova oggi a Roma. Essendo il Papa Napoli, non è che avessi svelato tantissimo. 800 24 00 24, cosa si vince? Un weekend a Parma offerto in una, tra le varie strutture. Trovate tutto anche sul nostro sito, sulla pagina Facebook di Si Può Fare, Si Può Fare Tattino Radio 24. Un weekend offerto anche questo dall'Associazione dei Comuni Virtuosi in occasione del bando per il premio nazionale dei Comuni Virtuosi. Questo abbiamo detto. Che altro? La foto su Instagram che faccio tutti i giorni quando vengo a Radio 24. Oggi ovviamente non l'ho fatta perché non sono venuto in motorino. E quindi non ho potuto fare la mia solita foto. Sono venuto in taxi, però anche per un altro motivo, perché dopo andrò a Verona. Vado al Vinitaly, Alessio. Dopo ne parliamo, credo. Beato giusto? Te, sei sempre in giro, ragazzi. Ma non fai nulla nella vita. Dove sei c'è alcol, c'è Carlo. Vabbè, sì, poi ne parleremo perché tra l'altro proprio a Vinita viene presentato un progetto che è la candidatura del Prosecco, lo diciamo, svegliamo subito questa cosina qua, come patrimonio dell'UNESCO. E io vado ad assaggiarlo, giustamente, vado a verificare se effettivamente è un buon patrimonio e va bene per l'UNESCO o se è meglio che ce lo teniamo per noi. Ecco. Allora, io una notiziola ce l'ho, perché ne avevamo parlato tempo fa delle acciaierie di Piombino, le ex Lucchini, rilevate dal gruppo algerino Cevital. Avevamo proprio dato la notizia quando era stato stretto l'accordo, una trattativa lunga, andata avanti molti mesi, forse anni, eccetera eccetera, poi sempre fra lo scetticismo e i dubbi. Adesso la notizia è che oggi, credo, o ieri, adesso non ho visto bene il giorno, insomma, c'è però scritto l'orario alle 10.56, credo di ieri, sono ripartiti l'alto forno. Hanno acceso l'alto forno. Quindi riparte la produzione, un alto forno temporaneo, perché poi sarà un alto forno diverso, credo una cosa elettrica. Insomma, però ripartono le acciaierie di Piombino, cioè un polo industriale siderurgico importante della industria italiana, che grazie a questo investimento straniero però torna a dare sicurezza, lavoro, fra l'altro con progetti di sviluppo anche di green economy, quindi diciamo stando attenti anche all'aspetto ambientale. Un'ottima notizia, anche perché quando l'abbiamo data giustamente c'erano anche che dicevano ma in realtà poi non lo riaccenderanno, la comprano solamente per smembrarla, per farci un parcheggio. Un sacco di brutte notizie, invece è un'ottima notizia. Ieri era anche, come abbiamo detto, la giornata mondiale della poesia, infatti possiamo fare che anche oggi, se avete proprio delle poesie che vi scappano noi così, assolutamente le accogliamo ben volentieri. Volevo solo ricordare però, che era anche il compleanno di Alda Merini il 21 marzo, non so se è per quello che il 21 marzo è la giornata della poesia. E niente, volevo ricordare Alda Merini, che ci ha lasciato il 1 novembre del 2009, quindi è nata il giorno della poesia ed è morta il giorno dei morti, direi che è precisissima. Adesso che facciamo? Iniziamo, vai! Che gioia la notte, ti ho visto ballare, puoi ridere di gusto senza malignità. La gente se vuole sa essere feroce, sarcastica e cinica senza pietà. Questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare, che poi tanto a me non mi piace. Io credo che invece il tempo è prezioso davvero un bel po'. Io quando ti guardo mi basta guardarti, è una bella notizia che porta allegria. Non c'è un paragone, non è che un milione di altre notizie ti portano via. A forza di essere molto informato so poco di tutto e dimentico di guardarti negli occhi, sbloccare i miei blocchi, alzare il volume, pensare che sì. La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo, lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Oh yeah, quando io sto con lei. Se metti un vestito stampato a colori in gara coi fiori, per me vinci te. Non è l'apparenza ma è l'apparizione che ti fa risplendere davanti a me. Se luce di stella permetti la vita, qui nel mio pianeta tutto parla di te. Il sangue che brilla, la mia clorofilla che scorre nel legno di mille chitarre, di mille violini suonati dal vento, di mille telefoni in cerca di campo. È meglio per te che quando ti guardo non sai che ti guardo, così come se la luna sapesse che stiamo a guardarla, potrebbe decidere chi non ce n'è e mettersi in posa, cambiare qualcosa. Invece è bellissima così com'è, così com'è, così com'è. La mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo e lo riprende al volo. Trasforma un pomeriggio in un capolavoro e mi fa stare bene. Insomma, ieri quando, anzi ieri l'altro, quando eravamo un po' a ricerca delle musiche per introdurre anche i nostri ospiti personaggi di domenica, pensando a Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro, a me la ragazza magica di Jovanotti sembrava una scelta perfetta. Sì, devo dire di sì. È apparsa assolutamente la scelta migliore. Ecco, noi la salutiamo. Buongiorno Isabella Conti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Insomma, siamo al telefono con la ragazza magica. Con la ragazza magica. La ragazza magica nella fattispecie è il sindaco di San Lazzaro, una cittadina alle porte di Bologna, per chi non lo sapesse. Una ragazza, perché tu quanti anni hai, Isabella? 32, sentite, insomma, ecco, già a 32 anni fare il sindaco vuol dire che hai, come dire, voglia di assumerti delle responsabilità. Sì, è così, è così, è così, ma sono in tanti della mia generazione che ci stanno provando e ce la stanno mettendo tutta, anche perché, insomma, noi facciamo proprio parte di quella generazione che quando avevamo 15 anni pensavamo che avremmo avuto una vita migliore rispetto a quella dei nostri genitori, che avremmo fatto vacanze più lunghe, più esotiche rispetto a quelle che facevano i nostri genitori, che avremmo avuto una casa più grande, che avremmo fatto studiare i nostri figli in scuole più prestigiose rispetto a quelle che avevamo frequentato noi. Avevamo, insomma, questa visione del futuro come una retta puntata verso l'alto. Nell'arco di questi 15 anni questa retta da puntata verso l'alto è precipitata rovinosamente verso il basso e noi abbiamo un po' la sensazione di dover fare del nostro meglio per riprendere in mano un pochino le redini, cercare di addrizzare il tiro. Una ragazza, sentite, anche dal tono gentile, tranquilla, pacata. Io ho davanti a me l'immagine del rendering di quello che avrebbe dovuto essere costruito a San Lazzaro di Savena, a Bologna, un complesso di 53 palazzine, alcune fino a 9 piani. Ecco, pensate che il sindaco Isabella si è messa di mezzo perché c'erano delle cose che non andavano, ed è questa, diciamo, la storia che sta caratterizzando in questo momento anche la sua vita, insomma la vita forse addirittura della città di San Lazzaro, ma se ne è parlato molto in tutta l'Emilia Romagna. C'è un'inchiesta su questo, perché tu hai ricevuto delle minacce per esserti opposta a questo progetto. Allora, diciamo che io quando mi sono resa conto che non si poteva assolutamente perseguire quella strada, che quella scelta era profondamente sbagliata e anche anacronistica, e ho deciso, sulla base proprio della tecnica, insomma, del diritto amministrativo, mi sono resa conto che non si poteva andare avanti perché mancavano la cordata di imprese che dovevano realizzare quell'opera, non avevano la situazione economica, insomma, sufficientemente solida per poter portare a termine quel progetto. E quindi al di là della bellezza o bruttezza del progetto c'era anche proprio un vizio di forma, diciamo. Sì, assolutamente, mancavano oltre 13 milioni di euro di fideiussioni che erano quelle che avrebbero dovuto garantire la realizzazione. Alla faccia del vizio di forma. Sì, esatto, ma perché poi in realtà, sì, insomma, il giro di affari di, quel, di quell'intervento erano 582 alloggi con negozi eccetera, quindi era una nuova piccola città, un nuovo quartiere, sì, insomma. Ma infatti io voglio dire una cosa, intendiamoci, non, siccome noi spesso anche da questi microfoni diciamo che bisogna recuperare il patrimonio edilizio, non c'è bisogno di spesso e volentieri di nuove costruzioni, non è vero in assoluto, pensiamo in assoluto a mai. Ospedali, al fabbisogno abitativo, sicuramente poi ogni, ogni regione, ogni comune decide per sé ed è giusto che sia così, però se pensiamo, dati del Sole 24 Ore, che in Italia ci sono 540.000 case invendute, la maggior parte di queste sono nuove abitazioni, allora di fronte a ogni nuovo progetto, diciamo, di costruzione bisogna farsi qualche domanda. Se poi a questo aggiungiamo il caso Lupi, ma non tanto lui come persona, ministro, che tra l'altro non è indagato, ma il giro di mazzette, questo sì, la magistratura dovrà dimostrarlo, ma ci sono al momento, diciamo, forti indizi che su una serie di grandi opere, la TAV e quant'altro, fossero, diciamo, quasi semplicemente al servizio di, della circolazione di queste mazzette. Se mettiamo insieme queste due cose, capiamo perché il sindaco Isabella Conti di San Lazzaro ci ha pensato un attimo prima di dare il via libera a un progetto che era nato tra l'altro pochi anni prima la stessa, lo stesso partito politico, sempre il PD, no? Aveva dato il via libera a questo. Sì, era in realtà un progetto che stava un pochino, era nelle previsioni urbanistiche dal 2009 e era partita una conferenza, insomma, dei servizi da prima, sì, dal 2008, fine 2007. Ma diciamo che il punto qual è? È che la ragione per la quale tutti i comuni hanno sempre, sono sempre ricorsi al cedere territorio, a conferire diritti edificatori per, ai privati, insomma, per costruire case, è per il semplice fatto che a fronte di quella concessione di quei diritti, poi i privati realizzano delle opere pubbliche che i comuni non sono in grado di realizzare da soli. Infatti, a fronte di quel grande progetto così mastodontico del mio territorio, insomma, si sarebbe dovuta realizzare una scuola, un centro sportivo, una sala polivalente, alcune dotazioni di cui la città si riteneva avesse bisogno, insomma, anni fa si è ritenuto avesse bisogno. Poi in realtà, insomma, io penso veramente che a fronte dello sforzo che faranno, che dovranno fare necessariamente tutti i comuni, che sarà quello appunto di eliminare dai propri piani regolatori, che si chiamano nel nostro caso in Emilia-Romagna PSC, potenzialità edificatorie, perché se voi sapeste quanti nuovi alloggi sono previsti nella provincia di Bologna dai piani regolatori dei comuni, ma vi rendereste conto che quello è uno strumento che è sempre stato utilizzato per avere le risorse necessarie per fare fronte a alcuni casi in modo molto per fare sbagliato. Cassa, insomma, si sa, certo, questi terreni. Tra, certo, tra l'altro questa cosa credo che sia entrata anche nell'inchiesta, perché il terreno su cui si doveva costruire questa serie di palazzine era stato venduto ai futuri costruttori prima della variante che dava l'edificabilità a un prezzo però più alto, 5 volte più alto che non si fosse trattato di un terreno agricolo. Quindi qualcuno dice, o avevano la sfera di cristallo per sapere cosa sarebbe successo in futuro, oppure evidentemente qualcuno aveva dato una dritta ai futuri, diciamo, costruttori. Che quando, sì, diciamo che quando io sono diventata sindaco ho cominciato a studiare tutto, ho voluto studiare tutto con molta molta attenzione, e è stato un lavoro certosino, perché l'urbanistica è molto complessa, e devo dire che se io non facessi, se non avessi avuto la mia formazione, perché faccio l'avvocato, e forse avrei avuto anche delle difficoltà a comprendere alcune dinamiche, anche alcuni atti contenuti all'interno dei faldoni. E la prima cosa da fare quindi era senz'altro cercare di capire quali erano le ragioni che avevano portato fino lì e come, anche dal punto di vista tecnico. E quindi mi sono resa conto che quella strada non era affatto perseguibile, e abbiamo deciso di avviare il percorso, insomma, di decadenza di quel piano regolatore, di quel piano operativo comunale. Ma prima... E a seguito di questo sono arrivate interferenze, diciamo. No, infatti volevamo esattamente capire questo. Infatti prima stavamo parlando delle minacce che ha subito, poi il discorso è finito su altro, perché ho letto una sua bellissima dichiarazione dove lei dice: cominciarono coi consigli per il mio bene, poi ci fu un'evoluzione. Ci racconta questa evoluzione? Allora, guardate, c'è un'inchiesta in atto e quindi c'è un'indagine in corso, quindi non ci può dire niente, però è così. Sono iniziati con consigli per il mio bene e da parte di una pluralità di persone, da una molteplicità di persone, tante, troppe, E poi insomma è anche questa, diciamo, questa interferenza nella mia decisione, che aveva come unica ragione e come unica stella polare l'interesse pubblico, il bene della mia comunità. Allora anche tutto questo interessamento esterno da parte di soggetti che apparentemente non avrebbero dovuto avere alcun tipo di interesse, forse nemmeno di conoscenza di quella, di sì, quella questione, anche questo insomma mi ha lasciata molto perplessa. No, infatti a noi ci sembrava interessante e importante raccontarlo anche per questo motivo, nel senso che nel momento che ci sono consigli per il proprio bene, è interessante il fatto che invece lei decide di andare dai carabinieri, perché molte persone uno dice vabbè, mi ha dato un consiglio, ma in realtà velatamente queste sono minacce, certo, o sono l'inizio delle minacce o sono l'inizio di qualcosa che poi dopo quando succede forse non c'è più il tempo di andare dai carabinieri. Ma quindi ci sembrava molto bello raccontare il fatto che lei ascolta questi consigli e decide però di andare dai carabinieri. Sì, poi è stato un po' un'escalation, questo sì, e quindi insomma ho ascoltato, ho sentito cose irripetibili e veramente non degne della comunità nella quale, Isabella, io nel quale siamo. Sono partito usando il tu per una questione istintiva, sì, e anche sì, per l'età, non per mancanza di rispetto al ruolo. Vado avanti così. Io quando... le do del lei perché sennò mia mamma mi picchia per quello. Quando hai preso questa decisione di opporti a questo progetto importante, si sa che una delle critiche che viene fatta è: ah, ma così si vuol bloccare lo sviluppo, bisogna far lavorare, eccetera, l'edilizia trainante, il settore della casa, eccetera, eccetera. No, ma la domanda che ti vorrei fare è questa: che tutto lo sia posto. Questo lo credo e lo immagino, ma la gente, i tuoi concittadini, insomma anche gli elettori, tra le due sponde, cioè la tua preoccupazione perché tutto fosse in regola dal punto di vista finanziario, che non ci fosse corruzione e anche che questo progetto non fosse troppo mastodontico per una città come San Lazzaro, e invece questa idea della edilizia come sviluppo, i tuoi cittadini ti hanno seguito su questa strada o sono state di più le critiche? No, assolutamente, i cittadini erano tutti con me, sono tutti con me, ma anche perché, insomma, la stragrande maggioranza, diciamo, ma poi anche perché era una scelta, questo è un tema che era molto sentito e molto sentito dalla mia cittadinanza. Voi pensate che anche il voto del Consiglio Comunale è stato un voto all'unanimità dei presenti, quindi... Questo ci conforta, devo dire la verità. A parte un gruppo politico che è uscito dall'aula, insomma, tutti gli altri hanno preso una scelta di grande responsabilità, di grande consapevolezza. Chi è che è uscito dall'aula? Questo ce lo può dire? Forza Italia. Però insomma è stata una scelta molto sentita da parte di tutti, e abbiamo fatto in modo di che tutti i consiglieri potessero avere davvero gli strumenti per capire, per comprendere. Abbiamo fatto 3 commissioni specializzate sul punto, abbiamo chiesto a loro che se volevano portare insomma gli avvocati o dei legali che potessero aiutarli nel capire questo ginepraio, perché era un ginepraio insomma dal punto di vista tecnico, potevano tranquillamente farlo, anche perché sapete quando è stato avviato il processo, il percorso di decadenza di questo piano urbanistico, insomma sono pervenute le osservazioni da parte di quelli che avrebbero dovuto essere i costruttori, qualcuno di questi paventando cause milionarie anche nei confronti dei singoli consiglieri, cause risarcitorie nei confronti dei singoli consiglieri. Quindi è stata una scelta molto faticosa e combattuta e anche un po' sofferta, però era la cosa giusta da fare. E vi dico, sì, il tema era anche che noi rischiavamo di fare avviare un intervento così grande e poi vederlo lasciato a metà, perché se non ci sono le condizioni per partire poi non si finisce nemmeno. E il rischio più grande di amministratore oggi è non solo consumare il territorio inutilmente, ma anche vederlo turpato, magari con le fondamenta e avere degli ecomostri non finiti. Senti, c'è stata una persona, io ho ricevuto solo una mail di una signora deliziosa che mi parlava del fatto che suo marito era un operaio della Cesi, che è appunto in liquidazione coatta amministrativa, e che quindi si chiedeva insomma qual è poteva essere poi il futuro di questi lavoratori. Ed è stata una mail che mi ha molto commossa, ma è la cosa che mi ha portato a riflettere, cioè questi sono problemi che un sindaco deve porsi, però nello stesso tempo davvero bisogna ricondurre tutto al ruolo, ai ruoli, cioè ciascuno deve essere consapevole del proprio ruolo. Il mio ruolo è quello di tutelare 32.000 persone che sono le persone che vivono nel mio territorio e tutelare il mio territorio. E lo fai, credo, egregiamente. A proposito però appunto di ruoli, perché ad eccezione di casi come il tuo, sembra che su questo tema della corruzione ci siano rimasti soltanto i preti. Ieri sia il Papa che Don Ciotti, tu tra l'altro nella manifestazione a Bologna di Libera, hanno speso parole, insomma, stando molto vicini anche alla gente su questo tema qua. Sembra che non ci siano rimasti che i preti a fare questa testimonianza, è così? No, non è così, vi garantisco che non è così. E se è vero come è vero che queste cose fanno malissimo la consapevolezza del nostro, all'autoconsapevolezza, insomma, di noi stessi e del nostro paese, perché davvero se ne sente una ogni due giorni. Questo è deprimente da un lato, però dall'altro davvero c'è un esercito di una legione intera di giovani, di studenti, di giovani amministratori che sanno benissimo da che parte stare, sanno benissimo quali sono le scelte da intraprendere. Io lo dicevo, insomma, me l'ho detto anche in un'altra occasione, ci sono 2,6 denunce al giorno da parte di amministratori che denunciano pressioni, intimidazioni, minacce nello svolgimento del loro lavoro. Qui tu dici bisogna saper distinguere tra gli amministratori che denunciano queste minacce e quelli che magari le subiscono e quelli che invece sono proprio conniventi, sono d'accordo, che sono una minoranza secondo te. Esatto, secondo me c'è davvero, siamo in tanti, perché 2,6 denunce al giorno sono veramente moltissime. E soprattutto soltanto per esempio il 13% poi di queste minacce sono riconducibili a organizzazioni criminali, riconducibili al sistema mafioso, insomma. Quindi vuol dire che c'è proprio un metodo di approccio sbagliato nei confronti delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni, ma significa anche, quindi queste interferenze esistono, ma significa anche che i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali vogliono svolgere con decoro, con dignità e con rigore il proprio compito e quindi denunciano. E guardate che denunciare è difficile, è faticoso, bisogna rompere, squarciare un velo e forse anche di più, insomma rompere tante riserve che uno poi pone su se stesso. Ma quello che è importante da dire e che bisogna dire è che si può fare. Il titolo della, insomma, la vostra, no, davvero, sembrava preparato, sembrava tutto fatto questo apposta per noi, invece che la ringraziamo moltissimo, no, condividiamo. No, ma è così, guardate, la cosa più emozionante che mi è successa nelle ultime settimane è stata quella di essere chiamata nei licei, in alcune scuole del mio territorio. Sì. E sono andata in questo liceo dove ho incontrato le terze e le quarte a Bologna. E volevano sapere, insomma, mi hanno fatto tante domande, volevano capire, volevano sapere. Io ho cercato di trasferire loro, insomma, tutto l'entusiasmo. Ho detto che la rivoluzione, che io alla loro età, insomma, diciamo, durante l'età dell'adolescenza, sia sempre animati, no, dal fatto di dover cambiare il mondo, cambiare tutto. Certo. E io ho detto: guardate, che la rivoluzione si fa studiando. Preparatevi, siate pronti, perché arriverà il giorno in cui voi dovrete scegliere, toccherà, in cui voi dovrete voi decidere, e io voglio che tra 10 anni, 15 anni ci siate voi a prendere delle decisioni importanti, e dovrete essere preparati, dovrete sapere qual è la cosa giusta da fare. Giusto, io voglio che ci sia anche lei, se posso, sì, sì, se posso dire. Comunque, resta al tuo posto per un bel po'. Condivido. Resta al tuo posto per un bel po'. Ma un ragazzo ha alzato la mano e mi ha detto: ma sì, il sindaco, scusi. Dico sì. Ho detto: ma cioè, allora lei ci sta dicendo che si può fare, cioè che cambiare il mondo è possibile. Ti giuro di sì, gli ho detto. Ti giuro di sì. Direi che è perfetto, si può fare, è un altro mondo è possibile. Grazie Isabella Conti, sindaco di Salazzaro, per essere stata con noi, anche per questo messaggio di fiducia. Grazie ancora e buona domenica. A presto. Noi speriamo che resti lì ancora un bel po', cioè, va bene tantissimo. Le nuove leve che arrivano, però lei stia lì. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vorremmo sentire anche cosa ne pensate, non solo di questa storia, ma insomma in generale. Carlo? Devo autodenunciarmi, ho detto una stupidata prima: il primo novembre è ogni santi e invece i morti è il 2 novembre, volevo chiedere scusa a non tutti. Non è grave, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24. Abbiamo Guglielmo che ci chiama da Bologna. Buongiorno Guglielmo. È caduto Guglielmo, speravo non si sia fatto niente. Giuseppe, è caduta la linea. Giuseppe da Milano invece, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora, intanto voglio salutare, mi chiamo Giuseppe Mana, chi mi conosce a Milano e a Vittoria, provincia di Ragusa, vi seguo da 20 anni ormai. Allora, ma saluta solo quelli che la conoscono a Milano e a Ragusa? E Ragusa, sì. Ma va, scusi, bene. Ci segue da 20 anni, no, ma Radio tutti, 24 tutti, c'è da 15, tutti. Giuseppe? Dimmi. Ha detto ci segue da 20 anni, ma Radio 24 sì, c'è da 15. Dico, era da un modo quando avete iniziato? Da quando perfetto. Ho cominciato a prendere dall'inizio, dall'inizio. Dall'inizio, sì, sì. Ed è finalmente riuscito a prendere la linea. Allora, io penso si tratti di un duo di musicisti di pianoforte, fanno un concerto a Roma e si chiamano Marchegiani e Schiavo. Ah, quindi siamo al personaggio della settimana. Perché loro? Ho pensato a loro? Allora, non dite se persone o cose, gli eventi a Roma sono tantissimi, la musica mi piace, principalmente il pianoforte, e quindi pensato sono loro. Di tua ispirazione. Non sono loro però. Non sono loro, però ringraziamo molto. Grazie per aver chiamato. Ciao, ciao, buon lavoro. E possiamo, però a possiamo dire punto, che ha dato una mano agli altri ascoltatori, perché possiamo dare il secondo indizio che aveva beccato senza saperlo. Diciamo, sono una coppia, il nostro personaggio della settimana. Di oggi, una coppia. Benissimo, 800 24 00 24. Abbiamo recuperato Guglielmo che chiama da Bologna. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Voi avete anticipato la mia osservazione, perché il numero di case invendute è tale che rende assurdo il pensiero di costruirne a centinaia. Sì, no? Cioè lei si riferisce alla storia di San Lazzaro. Sì, ma è una ostinazione assurda. Lei consideri che anche recentemente è fallito un grossissimo costruttore storico nel comune di fianco, ha capito? Quindi davvero è difficile capire perché questi volessero a tutti i costi e senza neanche avere le risorse mettere in piedi un cantiere di quelle dimensioni, una cosa abnorme, capito? Quindi lì c'è sotto qualcosa di strano che andrebbe indagato. E infatti la magistratura sta indagando. Esatto, c'è la fortuna di un sindaco molto bravo che ha detto fermi tutti. Perché sapete, a chi magari ci sta ascoltando, grazie intanto Guglielmo per aver chiamato, e dirà sì, va bene, avrà da fare qualche distinguo, lo scetticismo, eccetera eccetera. Sapete che la differenza tra mettersi in mezzo, opporsi a un progetto come questo e lasciarlo andare, è una differenza sottilissima, però è fondamentale, non so come dire. E una ragazza di 32 anni che si ritrova a fare il sindaco, che ha il coraggio di denunciare alla magistratura queste pressioni, si mette in mezzo, non è una cosa da poco. Ci fermiamo. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Conosciamo anche oggi un eroe per un giorno, un eroe della vita quotidiana, e conosciamo Tino Blini. Per ben più di un giorno, direi. In questo caso sì, infatti ho avuto un'esitazione per quello. Buongiorno Tino Blini. Buongiorno. Buongiorno. Edicolante a Buongiorno. Grandate, in provincia di Como, edicolante resistente, perché la sua è una storia incredibile. Lei aveva un'edicola all'interno della stazione di Nord di Grandate, che è stata chiusa giugno del 2013 per lavori. I lavori che poi, tra l'altro, ci dica lei, ma non sono neanche iniziati. Tino? Esatto, non sono neanche iniziati. Però intanto hanno chiuso la stazione, hanno chiuso la sua edicola. Lei però da quel giorno non si è arreso. E che cosa ha fatto tutte le mattine fino ad oggi? Essendo vendere quei 4 quotidiani, e posso vendere e devo pur sopravvivere, no? E come ha fatto? Ha continuato a venderli fuori dall'edicola, anche d'inverno? Sì. Sì, sì, ho continuato. Insomma, era perché era anche il suo lavoro, la sua i quotidiani e tutto il pubblico che saliva sui treni della Nord. Perché dunque la stazione è chiusa, però i treni viaggiano, circolano. Sì, i treni circolano, sì, sì. Cioè è chiusa la stazione, la biglietteria, il suo bar edicola che lei aveva non le permettono di entrare. Quindi lei decide di prendere lo stesso i giornali che le danno dalla distribuzione, di mettersi in piedi per, da quello che ho capito, 12-13 ore al giorno all'ingresso della stazione a vendere i quotidiani. È così? Esatto. A noi è una storia che ci ha commosso molto. Accidenti, che caparbietà. E poi comunque è spinto anche dalla necessità, perché questo per lei era il suo lavoro. Sì, devo pur sopravvivere, come gli ho detto, non pretendo mica tanto, però di poter sopravvivere, certo. Capirà, no? E poi dare anche una possibilità a tutti questi pendolari di avere almeno un quotidiano da leggere, perché di gente ne sale un casino, capisci? Sì. Certo. E lo comprano il giornale da lei, sì, immagino di sì, apprezzeranno sì, anche sì, il suo sì, sforzo. Lo la conosceranno ormai da anni, perché lei da quanto tempo aveva l'edicola lì? Dunque, io sono nato lì, ho 65 anni, faccia il calcolo lei. Infatti però abbiamo letto... Però siamo quasi a tre generazioni. Esatto, abbiamo letto che lei è un edicolante da sempre, nel senso proprio dal primo giorno della sua vita, perché già sua mamma faceva l'edicolante, già da tre generazioni sì, la vostra famiglia. Ha fatto il cinquantesimo lei. Ah, però... E sì, come sì. Si festeggia il cinquantesimo da edicolante? Ah, non l'abbiamo festeggiato. Perché non è il momento, direi. Abbiamo continuato ad andare avanti a lavorare... E cosa vuol festeggiare? Senta, c'ha ragione, le chiedo scusa. Senta Tino, ma non vorrei farmi gli affari suoi, ma quanti quotidiani, giornali riesce a vendere così? Perché insomma, senza avere l'edicola, non è che secondo i giorni alterni, guarda. Sì. Per esempio, il 24 ore fisso per tutti quelli che sa, bancari, notai, avvocati, tutta questa gente, no? Sì. Anche questo non ero preparato, perché siamo Radio 24, se no sembrava che lo facessimo per quello. No, io gli dico come stanno le cose. Certo. Poi il Corriere della Sera è fisso. Sì. Il giornale. Sì. E poi cos'è il... La provincia di Como. Sì, beh certo, giornale locale. La Repubblica la sento bassa in classifica. Ecco, esatto, la Repubblica è uno dei quotidiani che ha preso più piede da me. Ah, ecco, vedi. Senta, ma Tino, ma quindi insomma la gente però, si dice che la gente ormai legge meno il giornale, no? Si informano tutti sui tablet, sugli smartphone, però da lei lo comprano il giornale, insomma, quindi Sì, perché il giornale rimarrà sempre una compagnia. La continuerà, anche se c'è stato questo ammodernamento di tutti questi aggeggi che, come dice lei, sì. Che insomma, io poi non so neanche più come si chiamano questi aggeggi. I tablet, gli smartphone. Adesso lei, Tino, il quotidiano è sempre quello che informa più di tutti. Adesso lei, Tino, continua questa sua battaglia. Le hanno assegnato però un gabbiotto quelli di Trenord, è vero, dopo che è uscita la sua storia sulla cronaca locale. Loro mi avevano promesso, esatto, una cosa mobile finché sarebbe stata ristrutturata o costruita l'edicola nuova, diciamo. È arrivata questa cosa mobile? Però l'amministratore dottor Malugani mi ha assicurato che avrebbe provveduto a mettermi un po' più al riparo, in condizioni migliori. Esatto. Però ancora mi pare di capire che non è arrivata questa cosa. Avranno anche loro i suoi problemi. Sentite Tino, che è disponibile addirittura a capire gli amministratori di Trenord. Magari fate qualcosa per Tino, mi raccomando. Grazie però intanto per essere stato con noi, Tino Blini. Grazie buona mille, domenica, buona l'edicolante di Grandate, una storia incredibile. Però Trenord, dateglielo questo gabbiotto almeno, dai. E dategli l'edicola. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Questa che avete appena ascoltato è Take Me to Church di Hozier, canzone suggerita dal nostro ascoltatore Sergio Villani, che apprezza il messaggio anti-omofobia contenuto nel video di questo brano. Effettivamente ha un video con una storia fra due ragazzi che è commovente, tragicamente commovente. Vi ricordiamo che potete segnalarci il vostro Si può fare in musica, o se siete dei musicisti, o se siete dei cantanti, o se avete composto delle canzoni, potete segnalarci anche e inviarci delle vostre canzoni sia sul nostro account di Facebook Si può fare trattino Radio 24, sia sul nostro account di Twitter chiocciola Si può fare 24, sia sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio è chiocciola Ale Maurizi. Allora, cari ascoltatori, 800 24 00 24, ci state chiamando per parlare e giocare con noi. Riccardo da Como, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Prego. Senti, io volevo purtroppo testimoniare un caso opposto, nel senso che molte volte non si può fare, nel sì. senso che qui a Turate c'era un campetto pubblico, quindi un parco pubblico, ricavato praticamente dalla cessione della costruzione di alcune villette. Difatti noi tutti i proprietari di queste villette abbiamo dovuto cedere, almeno i costruttori, parte del terreno, perché doveva essere ovviamente parco pubblico. E dopo circa 20 anni ci siamo trovati con il comune che ha venduto l'area a un, inizialmente per in teoria farne praticamente dell'edilizia agevolata. Sì. E invece abbiamo scoperto in seconda battuta che è edilizia assolutamente privata, doveva essere costruito un asilo nido, invece è un asilo nido privato, e poi anche un edificio commerciale al posto del parco pubblico. Ci quindi insomma al posto del parco vi siete ritrovati dei banali edifici. Sì, nonostante ci fossero più di 200 appartamenti ancora oggi invenduti. Sul territorio, perché non stiamo parlando. È la solita questione. Sì, e soprattutto mi sembra di capire che voi avete dovuto pagare i cosiddetti oneri di urbanizzazione, esatto, e esatto, far costruire un parco, e poi loro si sono venduti il parco. Esatto, ma si sono venduti il parco. E loro non hanno oneri di urbanizzazione a loro volta? O forse loro a loro volta poi costruiscono un parco però in un altro paese? Certo, probabilmente, ma qui è il comune che ha in pratica venduto il terreno, perché i costruttori delle case qua hanno dovuto cedere del terreno per farne parco. Dopo 20 anni il comune se l'è venduto. Sì, sì, abbiamo capito perfettamente. Perfettamente. È una storia opposta rispetto a quella, però è quasi forse la norma in Italia, quello che ci ha raccontato lei, rispetto invece a quello che è accaduto a San Lazzaro. Siamo partiti da qui stamattina con il sindaco Isabella Conti, che ha detto no ad un'ennesima colata di cemento, che tra l'altro aveva detto no, oltre che per questioni di impatto ambientale, ma anche per questioni di struttura finanziaria delle società, per pressioni, casi di corruzione, il terreno venduto prima dell'edificabilità, eccetera. E poi eccetera. Non avevano nemmeno i soldi della fideiussione, esatto, in quel momento. Consigliamo al suo sindaco di fare una telefonata al sindaco di San Lazzaro. Anche se ormai potrebbe essere troppo tardi, ma chi lo sa, chi lo sa. Non è mai troppo tardi, si può andiamo fare. Andiamo con Gianni che ci chiama da Perugia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io abito qui in città, però ho una casa in campagna, sì. In una località nel comune di Magione, si chiama Borgo Giglione. In questa località è stata tempo addietro costruita una discarica. Ora so che i comuni su cui territorio c'è questa discarica hanno dei contributi, eccetera. Bene, noi abbiamo delle case dove non arriva l'illuminazione pubblica, non c'è l'acqua, non esiste manutenzione di strada. E come avete fatto a costruirle le case se non arriva l'acqua? C'è stata lo stesso il piano urbanistico. Però scusi, cosa c'entra questo con quello che abbiamo raccontato di San Lazzaro di Savena? Perché comunque diciamo quello che accade in generale è comunque come difficoltà con gli enti pubblici, e anche quello che gli enti pubblici delle volte fanno, quello che le amministrazioni consentono, perché di qualcosa di anche di simile accade, perché noi siamo costretti, nonostante la mancanza di tutti i servizi, a pagare invece per esempio le spese, i costi di gestione per quanto riguarda la necessità. Vabbè, insomma, ma poi forse Gianni, le case non si potevano costruire lì, nel senso che se non arriva l'acqua forse voi non potevate costruirle le case. No, potevamo costruirlo perché era nel piano urbanistico, era urbanizzata questa zona e quindi avrebbero... Difficile entrare però in ogni storia, in ogni piano urbanistico di ogni città, quindi non è commentabile questa cosa che ci sta raccontando lei, così come ce l'ha raccontata. Gianni, grazie per aver chiamato. Giuliana da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Sì, io ho telefonato per il personaggio. Sì. Ottimo, e noi siamo felicissimi, siamo tutti orecchi. Si era intimidita perché pensava di dover parlare di un di storie di case costruite? Ma può... No. Può benissimo solo rispondere al nostro personaggio, prego. Sì. Lupi. Lupi. E ma Lupi, siccome è una coppia... Figlio. Ah, ecco, pensavo ci fosse tutto il branco. Beh, forse anche la moglie per i biglietti aerei, non lo so. Lupi, padre e figlio. Vabbè, la notizia ovviamente è c'è nota. Questa settimana è abbastanza nota. E in effetti ci poteva stare, ma non sono loro la coppia di personaggi a cui avevamo pensato quest'oggi. Grazie mille, Giuliana, per aver chiamato da Treviso. Tra l'altro, chi lo sa se sono a Roma oggi, Lupi e figlio, perché la nostra coppia di personaggi oggi è a Roma e questo era il primo indizio. Beh, Lupi penso di sì, il figlio penso che stia più da queste parti qua, stia più dalle parti di Milano. Che facciamo? Aggiungiamo un indizio? Aspettiamo un attimo, va, aspettiamo. Facciamo un altro ascoltatore velocissimo. Giovanni a Treviso, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Giovanni Gentile, la poesia è senza limite. Non abbiamo capito nulla. La poesia ha come senso senza limite. Il prego, titolo. Prego, abbiamo capito, il titolo è senza limite, ma non abbiamo capito se lei è della polizia. No, quale polizia? Ah no, l'ho sentito male io. Ma il titolo di cosa? Della poesia, vuole leggere? Mi ero distratto, vada Giovanni, vada veloce con la poesia, allora, breve però. Sì, breve. L'universo intero è una piccola bolla nell'immensità del sentimento esploso nel mio cuore. Ogni attimo della mia vita, quando li illumini col tuo sorriso splendente, diventa una eternità di gioia. È finita? Certo. Va bene, noi le poesie bisogna moltissimo metabolizzarle, magari domani mi arriva. Grazie Giovanni, ti è piaciuta Carlo? A me sì, ma a me piace tutto. Traffico, a tra poco. cronache da un paese migliore. Nell'acqua, vi ricordo che trovate tutti i link delle canzoni scelte dal nostro autore Andrea Piana sulla pagina internet di Si Può Fare, sul sito di Radio 24, ma anche sui nostri social network. Parliamo di acqua, perché oggi, tra l'altro, caro Carlo, è la giornata, è l'ennesima giornata di questa settimana che era piena di tante giornate. Oggi è la giornata mondiale dell'acqua. Ah, ma oggi è la giornata mondiale dell'acqua. Oggi 22, ma adesso avevo capito qua davanti a me l'ANSA che dice proprio oggi. E allora perfetto. E insomma, notizie sulla questione dell'acqua, per esempio c'è un rapporto delle Nazioni Unite che parla delle riserve d'acqua che si stanno esaurendo troppo velocemente. Io voglio salutare e dare il buongiorno a Laura Bettini. Laura? Buongiorno Alessio, buongiorno Carlo. Buongiorno. Una voce amica non solo per me ma per gli ascoltatori di Radio 24, perché Laura Bettini è la nostra giornalista del GR e conduce il programma L'altro pianeta. Ma questo dovevano scoprirlo. Era il personaggio. Era il personaggio. Ma come? Ah, no, abbiamo sbagliato. Laura Bettini, che ha appena scritto un libro, L'acqua intelligente, una gestione sostenibile ed economica è possibile. Ti lascio subito la parola, però voglio premettere una cosa: che insomma, di acqua si parla molto sul tema. Per esempio, adesso va di moda parlare se l'acqua deve essere pubblica o no. C'è stato un referendum, eccetera. Mi sembra di capire dal tuo libro, Laura, Tascabili dell'ambiente, edizioni ambiente, Tascabili dell'ambiente Smart City, la collana, che tu dica, beh, insomma, mentre voi state discutendo politici se l'acqua deve essere pubblica, privata, cosa bisogna fare, eccetera, intanto però cerchiamo di non sprecarla, gestiamola in maniera intelligente. Io questo ho capito, però No, hai capito bene, la logica è proprio quella. È vero che possiamo fare una discussione anche su quel tema, però nel frattempo la continuiamo a sprecare, almeno nella gran parte dei casi. Quel rapporto che tu citavi poi è chiarissimo, qui consumi, aumenta la popolazione, aumenteranno i consumi, l'agricoltura dovrà rendere sempre di più e l'agricoltura è quella che consuma più acqua, poi aumenteranno i consumi industriali, aumenteranno i consumi civili, c'è un problema di acque reflue che quindi sarà sempre più grave e insomma nel frattempo mentre discutiamo se e quanto e come dobbiamo pagarla, le cose vanno avanti e invece dovremmo affrontarle, potremmo anche affrontarle perché le tecnologie per farlo, almeno per quel che riguarda le nostre città, i paesi già che con sviluppati insomma ci sono. Cioè giustamente tu dici non aspettiamo la fine di questo dibattito che sia anche la sensazione che sarà eterno esatto. Sulla pubblica, pubblica. Iniziamo contemporaneamente mentre qualcun altro discute noi a fare. Ecco però chi deve farli per esempio tanto per rispondere a una domanda questi investimenti per modernizzare la rete, ora parliamo per esempio dell'Italia tanto per stare. Ecco parliamo dell'Italia, chi deve farli, chi gestisce il ciclo idrico integrato delle acque deve assolutamente farlo, non è che si può pensare che questa cosa sia da rinviare chissà quando. Allora è giusto pensare a una tariffa giusta per l'acqua, perché l'acqua è un bene pubblico, è un bene che ci garantisce anche la sopravvivenza proprio, quindi non possiamo pensare di pagarla delle cifre stratosferiche, però non possiamo neanche pagare agli 0,2 centesimi di Milano, in Svizzera si paga 8 euro al metro cubo, a Milano guardate un po' la differenza, allora non possiamo neanche dire che è giusto così perché sei la prima prima persona negli ultimi 5 anni che sento che chiede un aumento. Questo è un punto fondamentale, perché io sono rimasto un po' così, dico, ma come, bisogna pagarla di più? Poi in effetti ho seguito il filo del tuo ragionamento e ho capito, è un bene così prezioso e così importante che deve avere un valore. Qui poi si pone il problema, per esempio, di chi non ha reddito, ha redditi bassi. L'acqua è un bene talmente di base che bisogna garantirlo anche a chi non se lo può permettere. Però per tutti quelli che invece se lo possono permettere, bisogna che venga pagato così come viene pagata l'elettricità o altre cose. L'esempio che hai fatto sulle tariffe ce lo puoi ripetere? Così capiamo meglio. Allora, stiamo parlando di meno di 1,02-0,04 euro. Siamo sulla provincia di Milano, allarghiamo pure il discorso, sì, dell'acqua, se ne tanta. In Svizzera si arriva a pagare 8 al metro cubo, 8 euro al metro cubo, a Berlino mi dicono essere 6 euro al metro cubo, cioè è chiaro che la risorsa viene diciamo così percepita come tale anche dal consumatore, no? Perché noi tante volte non abbiamo la percezione di questo bene, che se io vi chiedo se avete il contatore dell'acqua in casa e del gas in casa, uffa, dell'acqua in casa, molti non sanno nemmeno se ce l'hanno o no. È verissimo. Se vi chiedo quante ne consumate non avete la più palla idea. Diamo per scontato quanto la pagate, tutto. Non ne ancora parliamo meno, nemmeno. Sì. Però forse, ecco. Ma ti chiedo una cosa, perché forse essendo io di Milano, avendo anche i nonni di Milano, a Milano forse è un falso mito, ma si è sempre detto di acqua ce n'è troppa, c'è la falda acquifera che è alta, quindi non c'è mai stato insegnato di non sprecarla in realtà. No, ma è vero, Milano ce n'è troppa, per carità, è un problema, lo vediamo ogni volta che piove, no? Vediamo, guardatevi i garage del Sole 24 Ore, esatto, sono sempre, sì, allagati. È un come i garage e le cantine dei milanesi. Forse le due cose non vanno insieme, non possiamo sprecarla perché abbiamo i garage allagati, dobbiamo, giusto, gestirla meglio prima che arrivi a Milano, insomma. Giustissimo, no, ma senti, esatto, volevo sentire questo. E invece, tanto per ricordare anche un po', per mettere i puntini su lei, parlando diciamo di percentuali di come si compone la torta dell'acqua, perché questi sprechi che noi possiamo fare in casa contribuiscono comunque ad una quota diciamo di consumo dell'acqua che forse è minoritaria, perché il primo consumatore di acqua è l'agricoltura. Sì, questo è vero, l'agricoltura arriva a consumare il 70% dei prelievi, no? Quindi quelli che poi sono per gli usi civili, poi c'è l'industria e l'ultima è l'uso che noi ne facciamo nelle case, gli usi civili, no? Però anche questo mi ha colpito, però scusa Lara, poi pazzesco, ti faccio mi ha colpito perché gli sprechi sicuramente ci sono. Tu poi dici 5 litri d'acqua per lavarsi le mani, è lo spreco che a te personalmente ha colpito di più e devo dire che è veramente tanto ed è sbagliato, bisogna fare qualcosa. Però questo 70% di acqua consumata nell'agricoltura, anche lì non ci sarà un modo, non ci saranno degli sprechi, perché certo, se si riuscisse a ridurre un po' quelli si recupererebbe tanto, no? Guarda, gli interventi vanno fatti su tutti i fronti, è chiaro che in casa diciamo sono quelli che di solito spendiamo anche noi giornalisti, perché sono quelli che fanno più comunicazione, no? Perché io e te ci possiamo dire, non so, laviamoci i denti se spegniamo il rubinetto, eccetera eccetera. Sull'agricoltura gli interventi sono da farsi assolutamente e sono possibili, pensiamo all'irrigazione goccia a goccia, no? Che è una cosa, sì, che ormai si sta diffondendo, raccolte di acqua piovana, ci sono mille possibilità che ormai ci consentono di, oppure l'innaffiatura, quella che insomma interviene soltanto se c'è davvero bisogno, no? Se la pianta ha bisogno gli si dà l'acqua, se non ha bisogno si lascia perdere, quindi basta quegli spruzzini che tutte le sere si accendono e allagano tutto. E come fa la pianta? Come fa la pianta a chiedere acqua? Scusa, ma ci sono dei sensori che lo no, ma te lo chiede, in un certo senso te lo chiede, ci sono dei sensori che rilevano la necessità di acqua nel terreno. Perché io non ho il pollice verde, lo stanno questo facendo, e quindi si può fare, per restare in tema con la trasmissione. Giusto. Senti, ma è anche in questo caso però, cioè, si parla di tecnologie molto nel tuo libro, anche di questo, di cosa bisogna fare, di cosa viene fatto negli altri paesi, quali sono appunto le tecniche che si potrebbero utilizzare per fare tutto questo, e questo potrebbe essere anche un pezzetto non minoritario di una economia che riparte anche con questi investimenti. Ci sono però in Italia incentivi, si è incentivato di tutto, dal pannelli fotovoltaici a le automobili fino a qualche anno fa erano incentivate. Questo processo di rivoluzione tecnologica ha degli incentivi, oppure adesso chi vuole investire, un agricoltore per esempio, per rinnovare il suo impianto di irrigazione, se la deve vedere tutta da solo? Se la deve vedere in gran parte da sola, sì. E soprattutto non ha neanche una spinta ideologica verso questo, cioè chi l'ha fatto perché crede di dover, così in cuor suo, ha deciso di preservare il bene terra e il bene acqua. Mi vengono in mente certi coltivatori che lavorano nel campo dei pomodori e così via, l'hanno fatto loro, non gli è richiesto da nessuno. E è chiaro che poi loro in questo modo preservano anche quello che è la fonte della loro produzione, quindi diciamo che si assicurano per il futuro una redditività, ma non è una richiesta. È chiaro che lì bisogna cambiare anche, no, la prospettiva dal governo, dal stato centrale in giù, oppure possiamo chiederla noi questa rivoluzione, ma la cosa è molto lenta e molto difficile, diciamo che ci vorrebbe un insieme delle due componenti. Il tuo libro è, per quanto diciamo leggibile, sintetico, sono poco più di 100 pagine, grazie anche a nome di tutti i lettori, però contiene tante cose, per esempio anche passaggi veloci come sulla questione delle bottiglie d'acqua. Tu hai un tuo punto di vista, bisogna essere saggi, equilibrati, perché non si può fare la crociata contro l'acqua in bottiglia, ma non si può neanche essere il primo consumatore forse al mondo in Italia, è vero, di bottigliette? Sì, noi siamo il primo consumatore al mondo di bottigliette, anche lì secondo me apprezziamo poco poi dopo quella cosa che abbiamo in mano, quella che ci resta in mano, cioè la bottiglietta stessa, no? Io non so se voi condividete, io ho notato che all'estero pesano molto di più queste bottiglie di plastica, quindi non ti viene voglia di buttare nella spazzatura, ma diciamo, no, le consideri una risorsa plastica vera, invece che questa plastichetta vera. Così noi le facciamo sempre più sottili, più sembrano delle cartacce, la gente questo non è neanche invogliata. Sentite il rumore della plastichetta? Ecco, in diretta. Se le facessimo un po' più solide, se ci mettessimo anche in testa che quella del rubinetto in molte città italiane è buona, quindi potremmo avere una misura giusta nelle cose, bere ordinariamente una, vogliamo toglierci la soddisfazione di bere, citiamone una strafamosa, la Perrier, e beviamoci la Perrier, e poi dopo quando ci rimane in mano la bottiglia, se è di vetro col vetro, se è di plastica PET con la plastica PET e così via, siamo tutti più sereni. Invece noi tendiamo a confondere, appunto, a fare le crociate, l'acqua in bottiglia, l'acqua del rubinetto, salvo poi comprarle a manetta. Ecco, speriamo che l'acqua a Milano non costi come la Perrier, perché la Perrier costa veramente delle cifre proibitive. Io bevo solo l'acqua del rubinetto, come quindi... la Perrier, non deve costare come la Perrier, deve costare un pochino di più, anche per permettere al gestore di Milano, come al gestore di Canicattì, insomma, di investire poi dopo quello che lui guadagna, perché non è che ci si guadagna su quel mercato lì, rattoppare l'acquedotto, certo, e rattoppare l'acquedotto, esatto. Io ho sentito di aumenti spropositati per l'acqua in Toscana, Alessio dalle, sì. Pisa e dintorni, ma poi mi confermerai se mai, ho sentito di grandi aumenti, lo sappiamo tutti, della zona di Frosinone, gestori privati, lì è chiaro che dobbiamo vedere i risultati di questa politica di aumento delle tariffe. Se non ci sono i risultati, allora hanno ben ragione i cittadini a inviperirsi, perché se tu mi prendi più soldi mi devi anche investire, certo. Mi devi fare in modo che le fogne non finiscano più a mare, che sia tutto depurato, che sia ineccepibile. C'è un paese che ti ha lasciato, perché vedo che ci sono delle statistiche anche su altri paesi, che secondo te che è un paese guida all'estero, qualcuno che ha una buona pratica a cui davvero girarsi, guardare, dire cavolo, proviamo a fare così anche noi? C'è qualcuno che ti ha colpito in particolare? Oppure... Guarda, io ho sentito dire meraviglie dell'Olanda, non ci sono mai stato, adesso magari vediamo di organizzare il prossimo libro, lo facciamo sull'Olanda. Esatto, l'Olanda dove la sperimentazione è avantissimo, ovviamente loro combattono con l'acqua per la sopravvivenza, perché la situazione loro è molto diversa da quella di tutti gli altri europei, sperimentazioni avanzatissime in tutti i campi, anche molto difficili però poi da applicare, da calare in altri paesi europei, non possiamo non è copiare così facile. Va bene, dobbiamo studiare e capire. L'acqua intelligente, una gestione sostenibile ed economica è possibile. Grazie Laura. Buona domenica. Grazie mille. Se possiamo dire un'ultima cosa, devo dire che Laura, il giorno Bettini, in cui inizia il Vin Italy, piazzare la giornata mondiale dell'acqua è un po' un ossimoro. Ma forse hanno sbagliato quelli del Vin Italy, perché la giornata mondiale dell'acqua l'ha deciso l'ONU. È vero, già però dal 92. Tra poco saliamo di gradazione alcolica e parliamo di Vin Italy. Vin Italy. cronache da un paese migliore. Di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buona domenica. Allora, recupero un po' di Twitter veloce. Abbiamo Mauro Esposto che, a proposito del sindaco di San Lazzaro, Isabella Conti, dice: sentendo la Conti penso alla tristezza di figure come la Minetti e le Olgettine. Oppure Serena Gambi, che twitta sempre con noi la domenica: che piacere sentire una giovane così determinata, impegnata per il bene comune. Poi c'è anche chi dice, come per esempio Bruna Crescenzi, recuperare l'esistente costa di più che costruire ex novo. È vero, però bisogna farlo uno sforzo, no? per evitare di costruire e consumare sempre nuovo suolo. Poi sono costi, diciamo, ci sono costi diretti, può costare di più recuperare l'edilizia che non costruire ex novo, ma dal punto di vista dell'ambiente generale poi i costi in realtà inevitabilmente aumentano. Poi c'è Vincenzo Ciulla che invece se la prende coi costi dell'acqua, sempre su Twitter, perché dice: no, costa, non bisogna troppo farli aumentare perché sennò l'industria chiude. Però insomma, fra i 2 centesimi che paga Milano e gli 8 euro che paga la Svizzera, però una via di mezzo. Uno era al metro cubo e uno era 0,2 centesimi al litro, credo. Carlo, quando la fai queste cose è così, mi è fai così tremare, perché non so mai cosa hai capito. No, cosa ti dico che la differenza non è 2 centesimi e 8 euro, perché sennò sembra che in Svizzera costi 8 euro al litro. Non può costare 8 euro al litro, è al metro cubo. Sì, esatto. Alessandra da Milano, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, ciao Alessio. Buongiorno. Buona domenica. Grazie. Vorrei dare la risposta alla domanda. Al personaggio della settimana, sì? Al personaggio della settimana. Io però ho sentito solamente un indizio, per cui spero di poter riuscire. Vai Alessandro, vediamo. Quando avete detto una coppia, sì. Una coppia di tedeschi ha risarcito simbolicamente, ma anche praticamente, una comune della Grecia per i danni di guerra. È bella questa notizia, è vero, perché la Grecia ha chiesto tutta la restituzione perché c'è questo contenzioso un po' con la Merkel, e questi due signori personalmente si sono intervenuti. Messi in gioco, è incredibile. Non era questa però la risposta, Alessandra, però anche siamo se hai dato che tu abbia detto la notizia. Sì, ci cioè hai dato una notizia di questa settimana. Sì. Sì, perché poi il gioco è anche questo, è un po' riepilogare e giocare con le notizie della settimana. Ciro da Napoli. Certo. Buongiorno, ciao Alessandra, grazie Ciro. Ciro? Un silenzio inquietante da Napoli, non c'è Ciro? È dal Papa? Cosa mi dice Peter? Giuliano da Vercelli, allora. Giuliano sì, da Vercelli. Pronto? Buongiorno. Sono qua. Eccolo. Pronto? Siamo qua anche noi, siamo tutti qua. Mi permettevo di fare un commento sulla signora che ha prodotto questo bellissimo libro per il consumo dell'acqua. Vercelli, sì. Sappiamo tutti che è una zona risicola e di conseguenza, secondo il pensiero della signora, saremmo degli usurpatori d'acqua. Non ha detto così. Non usurpatori. La particolarità non ha detto dell'agricoltura. Così. La particolarità l'ho detto io dell'agricoltura, che è quella che si mangia la quota più grossa, quasi il 70% di acqua, e ho detto questo: se noi riusciamo a usare l'acqua in maniera più intelligente in tutti i settori, pensate cosa possiamo risparmiare. Per esempio anche dall'agricoltura, punto, no? Usurpatori non l'ha detto nessuno, Giuliano. Però materialmente quando si parla di agricoltura sembra che siamo degli assetati che vaporizziamo l'acqua e l'acqua non c'è più nei corsi d'acqua. Non so, lo dice lei, questo lo dice lei, io non l'ho detto. Per quanto riguarda il vercellese, sistematicamente con la coltura risicola vengono deviati determinati quantitativi e l'acqua viene all'ingresso della camera di risaia, tanta ne esce scaricata perché c'è una determinata produzione agronomica. Per quanto riguarda l'utilizzo civile, cominciamo a vedere come funzionano l'edilizia, che dopo più di 20 anni che c'è una determinata legge che determina le acque di categoria A, B e C, sì, inteso come A come potabile, B utilizzabile, C sono reflui industriali di una determinata fascia, caratteristiche, che più ne ha più ne metta, sì, noi continuiamo a dedicare sugli edifici nuovi ristrutturati la categoria A per il sciacquone dei gabinetti. Ma avremo ancora le grondaie da valorizzare per fare quel determinato giustissimo utilizzo. Tutto giusto Giuliano, bisogna risparmiare l'acqua in tutti i campi, guardi, anche nell'agricoltura. Adesso non vale dire che quelli dell'agricoltura dicono no, bisogna risparmiare nell'industria, quelli dell'industria dicono no, bisogna risparmiare nelle abitazioni civili, quelli dell'abitazione civile dicono no, è colpa di qualcun altro. Risparmiamo tutti, risparmiamo meglio. Esatto. Poi che si usi l'acqua potabile per gli sciacquoni è assurdo, su questo lei ha perfettamente ragione. Però è un'organizzazione, va organizzata, non è facile questo, e poi spesso in agricoltura viene usata acqua potabile che poi viene messa nel terreno e quindi non è che ridiventa acqua potabile. Davide da Firenze, buongiorno. velocemente. Buongiorno. Buongiorno. Sì, prego. Prego. Aspetta, volevo dare la risposta per quanto riguarda sì. il personaggio della settimana. Perfetto. Sì, la sento male. E noi la sentiamo allora, bene, vada Davide, vada. Allora, secondo me è Dolce Gabbana. Per la Dolce notizia, Gabbana. Ci dica, ci ricordi quel motivo della, di Dolce Gabbana? Allora, è una coppia che diciamo è entrata nelle notizie della settimana in quanto ha fatto delle dichiarazioni per quanto riguarda l'aspetto della i figli, la fecondazione assistita, chiamato figli sintetici. Plastica, sintetici della chimica, tutti i figli non nati da un rapporto sessuale. Esatto. Non è il personaggio, non è il personaggio, volevamo bene, fare Davide. Raccontare la notizia, ma non è il personaggio che abbiamo scelto. Grazie, sulla comunque. Questione, siccome io non ho detto niente sulla questione, non è che sia particolarmente interessato a dire la mia, volevo semplicemente dire che penso che loro hanno assolutamente tutto il diritto di dire la loro posizione e di comunicare al mondo come la pensano, come penso che chiunque abbia il diritto di decidere quindi di non comprare i loro prodotti, nel senso che mi sembra normale, una normale dialettica. In più la moda non vende solamente il vestito, perché se pensiamo che Dolce & Gabbana vendono delle mutande, ma non è così, vendono anche un pensiero, quello che sono loro, quindi loro hanno assolutamente tutto il diritto di dire noi siamo contrari alle adozioni, pensiamo alla famiglia solo tradizionale, e chiunque ha il diritto di decidere di comprare altre cose. Adesso diamo il benvenuto a Pietro Laureano, che è responsabile della candidatura delle colline di Conegliano Valdobbiadene a niente proprio di meno che patrimonio dell'UNESCO. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto. Grazie, buongiorno. Iniziativa che insomma viene presentata in concomitanza con il Vinitaly, perché quando si parla di vino si parla di eccellenze italiane. Insomma, noi ci abbiamo provato con la pizza e con tanti prodotti, a volte è andata in porto, a volte no. Ci racconti questa candidatura? Questa candidatura non è semplicemente sul vino, è la candidatura di un paesaggio straordinario, un paesaggio bellissimo che tra l'altro è nel cuore degli italiani, perché si identifica in alcune parti con il Piave, no? Questo fiume storico. È un paesaggio chiaramente identificabile, se vediamo una carta del bacino mediterraneo e guardiamo l'Adriatico, no? Che penetra verso l'Europa, ad un certo punto c'è un fiume, questo Piave, che va verso le montagne e descrive una grande ansa. Quest'ansa individua le colline di Valdobbiadene e Conegliano, quindi l'alta marca trevigiana, che sono delle colline uniche come caratteristiche geografiche, sono delle colline a corde, delle lunghe dorsali, no? Che così parallele alle montagne delle Alpi, creano dei luoghi particolari con una luce così specifica, utilizzata poi dai grandi maestri del paesaggismo italiano, Cima da Collegnano, Giorgione, che sono di queste zone. Ecco, tutto questo poi è diventato il vino del Prosecco, cioè tutto questo poi grazie però alla capacità delle genti, al lavoro umano, all'utilizzo straordinario di una terra che però non era direttamente vocata ad un'agricoltura facile, perché sono terre povere, terre magre. Ecco, grazie proprio a un'ingegnosità straordinaria ha poi creato questo vino splendido. Noi candidiamo tutto questo, candidiamo questa bellezza. Sì, ha fatto qualità. Bene a ricordare che in effetti questo è il senso della candidatura, non solo il Prosecco, perché per esempio recentemente è andata in porto la candidatura delle Langhe, altro distretto, altro territorio importantissimo, storico, di produzione di vini. Senta, però sul Prosecco, no? Perché insomma Davide Paolini, il nostro gastronauta, ci ha fatto intere trasmissioni sul confronto tra spumante, champagne, prosecco, eccetera. Qual è diciamo la marcia in più del prosecco, o comunque la caratteristica del prosecco per il quale noi dobbiamo tifare? Incorpora proprio le capacità e le qualità di questa terra, cioè il Prosecco è stata l'invenzione di un vino per tutti, di un vino che tutti possono gustare anche dal punto di vista economico, ma di altissimo qualità, di altissimo sapore, perché incorpora proprio i toni, la luce, i sapori, i profumi di questa terra, quindi è veramente un'invenzione di un vino il Prosecco, mentre magari in altri luoghi era più facile fare un vino, c'erano delle condizioni più specifiche, qui è stata proprio un'ingegnosità. Infatti il Prosecco è dovuto ad una lunga tradizione antica certamente, ma che in epoca moderna, in epoca contemporanea si sviluppa grazie alle scuole. Le prime scuole vitivinicole sono nate a Conegliano, sono nate in quest'area, quindi proprio ad una capacità specifica, un'ingegnosità specifica, sì, che noi oggi vogliamo celebrare proprio in questa in questo modo. Senta, il prosecco in molte zone d'Italia è proprio sinonimo di aperitivo. Va più forte in Italia o sono le esportazioni a, diciamo, a fare grande anche l'economia del prosecco? Ma io credo che ancora si equilibrino le due cose, che comunque ancora l'Italia rimane il terreno maggiore di vendita, ma le esportazioni sono importantissime. Io però su questo direi piuttosto delle cose da profano, perché la mia competenza non è tanto la commercializzazione del prosecco. E da profano devo dire che io, frequentando questi luoghi e imparando a conoscerli grazie alla capacità del consorzio, alle persone locali che mi hanno accompagnato, mi sono reso conto che ancora in Italia beviamo come prosecco, non siamo ancora abituati a distinguere nel prosecco le qualità somme, per esempio le zone di denominazione di origine controllata e geografica che si identificano con l'area candidata, proprio con l'alta marca trevigiana, con Valdobbiadene e Conegliano, hanno veramente dei gusti eccezionali, raffinatissimi, e ancora di più le cosiddette rive, cioè quelle zone che sono proprio dei pendici collinari perfettamente identificati dalla popolazione, ognuno con il suo nome, ed ognuno dà un vino con un gusto e un sapore determinato, quindi qui siamo effettivamente a livelli di cultura del vino raffinatissima che mi piacerebbe che tutti gli italiani imparassero a conoscere e a valutare. Ma lei adesso è al Vinitaly? No, io non sono a Vinitaly, purtroppo sono a Firenze in questo momento. Ah, io speravo di venire, era assolutamente un uso privato, volevo venire a sostenere la candidatura. Esatto, siccome sto andando adesso, vado a Verona al Vinitaly, volevo venire a trovarla per farmi così insegnare il prosecco. Ma ci saranno le persone competenti, sì, sì. Il presidente Nardi del consorzio. Ci vado lo stesso. Grazie, il suo nome farò. Le persone che più di me sapranno dirmi queste cose. Io vi spiego, ve le dico da profano, io sono piuttosto esperto di acqua, se volete, di candidature UNESCO, di paesaggi. Ne abbiamo già parlato di acqua, oggi è la giornata mondiale dell'acqua, lo ricordiamo e la ringraziamo moltissimo. Grazie Pietro Laureano per essere stato con noi, la candidatura del Prosecco a patrimonio dell'UNESCO. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo insieme a voi, cari ascoltatori. Abbiamo Valerio che chiama da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Cosa voleva dire Valerio? Sì, volevo partecipare al concorso e dire chi sono i personaggi della settimana. Benissimo, siamo benissimo. A mio parere sono Carmine e Nicoletta. Carmine Consalvi e Nicoletta Tinti, che partecipano alla maratona di Roma. Abbiamo aspettato che dicesse i cognomi. Bravo. Però adesso vogliamo sapere la notizia. Perché oggi si corre a Roma una maratona e loro per primi sfidano con l'esoscheletro, con questa tecnologia, sì, che stanno proponendo per i paraplegici, e sono i primissimi a fare una corsa. È vero, è sembrata una notizia, una bellissima notizia, un evento straordinario, bravi, stupenda. Tanta forza di volontà, tanta tecnologia e un messaggio importante di ottimismo. Grazie a Valerio, anche i due paraplegici che corrono la maratona di Roma per un chilometro, all'esoscheletro. Grazie Valerio, vince un weekend a Parma, Comune Virtuoso. Federico Taddia, crowdfunding, buongiorno, buona domenica. Buona domenica a voi, ciao. Siamo un po' di corsa perché col vino qua, il prosecco, ci ha un po' annebbiato le menti, sai? Lo immagino, solitamente lo sono. Allora, magari vi accenno velocemente a questo crowdfunding, poi ci torniamo perché è particolarmente significativo. È stato lanciato ieri, 21 marzo, la giornata della memoria dell'impegno per ricordare le vittime di tutte le mafie. È stato lanciato il crowdfunding per realizzare Mafia Maps. Che cos'è Mafia Maps? Maps è un'applicazione studiata da Wikimafia e vuole essere una mappatura completa del fenomeno mafioso in Italia. E il sottotitolo spiega tutto, loro dicono: loro, cioè i mafiosi, si occupano di noi tutti i giorni, è ora di ricambiare l'attenzione per sapere chi sono, mi sembra, ma straordinario, dove sono. Certo. Wikimafia.it è il sito, 100.000 euro è l'obiettivo da raccogliere in 3 mesi, però anche se raccolgono meno partono per realizzare questa applicazione, si sono dati un anno di tempo. L'applicazione in un primo momento costerà 99 centesimi all'anno, poi però successivamente si spera di poterla fornire gratuitamente, e vuole proprio essere una carta interattiva e aggiornata per studiare il fenomeno, dove sono i boss, dove si paga il pizzo, quali sono i comuni commissariati, quindi avere una vetrina, una cartina, una mappa giorno per giorno dettagliatissima per capire quello che è il fenomeno mafioso in Italia. Bellissimo progetto, bella iniziativa. Una vetrina dell'antimafia. Wikimafia.it è il portale per avere tutte le informazioni. Riusciamo a dirne ancora un'altra, secondo me, Fede? Perfetto, allora andiamo con Gondolas for Hall, è un progetto che potete trovare su indiegogo.com, 50.000 euro per realizzare una piattaforma in plastica che permetta di salire sulle gondole in carrozzina. Ci stanno lavorando già da un po', dicono giustamente Venezia deve essere una città accessibile a tutti, certo, con gli oggettivi e difficoltà. Con questo progetto si vuole permettere di far salire anche le persone in carrozzina in tutta sicurezza e anche in maniera molto agile, che anche questo è importante, e sulle gondole far vedere la tutti città. Tutti i link li trovate sul sito di Radio 24 e sulla pagina Facebook di Si Può Fare. Grazie a Federico Taddia, grazie, col crowdfunding, grazie anche ad Andrea Piano, autore insieme a noi del programma, Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, Lorenzo Nespoli oggi in assistenza in diretta, Peter Bescapè in regia. Ci vediamo, Carlo, a Verona al Vinitaly, io vengo lì a bere, ci vediamo lì. E invece noi ci sentiamo sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizio e da Carlo Gabardini. Ciao.